fatto un giro in strada con la mia cara intuizione solita che vaga fra chi prega la droga e chi non se la caga, parlando con la vita detto di nada. Ma signorita con un laccio tra le dita non ci bada, nei suoi occhi c'è quella strana vana espressione che dirada ogni sua sensazione come in entrata. Connessione con l'artificiale creazione, sperando che non la corroda. Dimensione plastica che intossica, destinazione la deflagrazione massima. Quando l'ennesima sconfitta è prossima, mantengo la mia direzione ma è durissima. Quasi istiga la mistica, è un quesito sul perché è così drastica, per chi ha coscienza che si distica. È un altro giro fatto col mio destino, ma chi l'ha detto che è già scritto se non c'è cammino? È dentro il mondo che io cerco il vero, è lì che traccio nuovo il mio sentiero. La soluzione non è autodistruzione, ma una scelta pratica, è realistica. Te lo spiego in due parole, fanculo dottore, io non sono un pazzo da curare. Questa è la massima, il male non è nostro ma è sociale, dal televisore che ci mastica indicandoci il normale, al regime modaiolo che ci vuol fermare e omologare. La situazione è la solita, è classica, fra cento stronzi ce n'è uno che poi investiga. Questa materia ostica non è etica, ma la mitica terra promessa e compromessa da sta statica e dalla messa per benissimo ogni domenica. Siamo una svista tra un alcolista e una rivista, con la forte economica, nota la mimica. Qua c'è rottura, altro che io, qua c'è la paura di peggiorare sulla linea dura, poiché ogni giorno è sempre la stessa storia, poiché da sempre sto aspettando una cura. È un altro giro fatto col mio destino, ma chi l'ha detto che è già scritto se non c'è il cammino? È dentro il mondo che io cerco il vero, è lì che traccio nuovo il mio sentiero. È un altro giro fatto col mio destino, ma chi l'ha detto che è già scritto se non c'è il cammino? È dentro il mondo che io cerco il vero, è lì che traccio nuovo il mio sentiero.